Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Lucio Mastro Berardino, Terre d'Ora e il vino dell'Irpinia, di Alessandra Scaglioni. In questa puntata di Voci d'impresa parliamo di vino, un settore dove è particolarmente diffuso il modello di impresa familiare, che è tema della nostra trasmissione. Protagonista della storia di impresa di oggi, Lucio Mastro Berardino e l'impresa della sua famiglia, Terre d'Ora. Il luogo è la Campania, la zona quella di Avellino. La data di inizio di questa storia è il 1994, quando alcuni dei membri di una famiglia imprenditoriale, attiva da generazioni nel settore vitivinicolo, prendono una propria strada. La storia della mia impresa di fatto è una quasi naturale evoluzione di una famiglia molto importante del vino italiano, la famiglia Mastro Berardino, una famiglia impegnata nel nostro settore da diverse generazioni. Nel 1993 accade un fatto importante. Per la prima volta la famiglia Mastro Berardino subisce una divisione, per cui i due fratelli più anziani si dividono e noi ci troviamo a fondare di fatto una nuova azienda, Terre d'Ora. Terre d'Ora parte a produrre vino nel 1994 perseguendo un obiettivo: creare in Campania, al sud, un'azienda leader per dimensioni ma anche per prestigio, che completasse il ciclo di produzione del vino inteso dalla nascita delle uve fino alla produzione della bottiglia finita e il suo accompagnamento sul mercato. La famiglia Mastro Berardino conosce il settore, ma l'avvio di una nuova impresa ha sempre incognite e difficoltà. Il segreto è stato non pensarci. Tassativamente non pensarci. Il primo momento difficile è che, avendo 200 ettari di vigneto, e il vigneto sa, non si ferma di produrre, non è come la macchina, dice non ho la strada, la fermo, costruisco la strada e poi riparto. Il vigneto no, produce l'uva tutti gli anni. La prima sfida da vincere è stata quella di costruire una cantina in meno di 6 mesi. Come dicono gli americani, missione compiuta. Un gran miracolo. Oggi personalmente non firmerei un contratto garantendo che si possa fare ancora, però si è fatto. Beh, caparbietà, determinazione, perseveranza, costanza sono tutti aggettivi che ci appartengono e che sono fondamentali per la riuscita di qualunque progetto imprenditoriale. Bisogna crederci. Terre d'Ora oggi possiede 200 ettari di vigneti e gestisce il completo ciclo produttivo del vino, con una cantina a Serra di Montefusco, a 650 metri sul livello del mare, ed è tra le maggiori e più estese aziende viticole del meridione d'Italia. Una sfida, perché sembrerà strano, ma in quegli anni l'Italia attraversa un momento recessivo, non duro come quello attuale, ma comunque un forte momento recessivo, per cui nessuno avrebbe probabilmente lì per lì pensato a un gran successo di questa intrapresa. Invece la storia si è conclusa con esito positivo. Oggi Terre d'Ora è una delle realtà del vino italiano più affermata nel mondo, con numeri sicuramente non grandissimi ma importanti per quella la dimensione media dell'impresa del vino italiano. Parliamo di un'azienda che vende nel mondo circa 1.300.000 bottiglie, con 6 milioni di euro di fatturato, un'azienda leader del vino del sud Italia nel mercato di qualità, quindi il mercato più complesso e più competitivo, dove ci sono tutti i più grandi marchi del vino italiano, del vino mondiale, che si distinguono per qualità. La crescita dell'azienda coincide anche con la crescita e la valorizzazione dei vini del sud Italia. Beh, noi ci siamo anche qui fermamente battuti per affermare un'identità diversa del vino del sud. Il vino del sud Italia nel mondo aveva la considerazione di essere un vino di grande potenzialità in termini di qualità, ma che però dovesse necessariamente costar poco. Beh, produrre vino di qualità sicuramente non è un dono della natura, non si avvera per nulla. Produrre vino richiede impegno, richiede passione, richiede investimenti, per cui la prima sfida da vincere è stata quella di far capire che il sud fa grandi vini, ma che sicuramente per fare i grandi vini c'è bisogno di impegnare tante risorse. Queste risorse poi vanno riconosciute dal mercato in termini di riconoscimento del valore del prodotto. Il fatturato è prodotto per il 60% in Italia e per il 40% all'estero. Ecco, anche qui il progetto della nostra azienda è partito subito. Il vino campano in quegli anni era forte, fortissimo sul mercato nazionale, aveva delle ottime presenze nel mercato internazionale, presenze molto di nicchia. Beh, noi per la prima volta in Campania abbiamo affrontato il mercato internazionale considerandolo il primo obiettivo da raggiungere, far scoprire, educare il consumatore mondiale al vino della Campania, ai vini dell'Irpinia, che è ancora una regione più piccola e ancora più difficile da comunicare. In un primo momento imparando e cercando di capire quali erano i bisogni del consumatore. Beh, poi alla fine è stato estremamente semplice. Il consumatore si aspetta che in un bicchiere di vino ci siano degli ottimi profumi, che il vino sia piacevole, gradevole da bersi, che gli confermi ciò che lui si aspetta. E questo poi vale a prescindere dalla difficoltà del nome. Greco di Tufo, Fiano di Avellino, Taurasi sono sicuramente nomi e vitigni che non si ricordano per primi. Però Greco di Tufo, Fiano di Avellino e Taurasi restituiscono al consumatore esattamente le aspettative che lui ha. Lucio Mastro Berardino è dal 2010 presidente dell'Unione Italiana Vini, associazione che riunisce 500 aziende e rappresenta il 90% dell'export di questo settore. Negli ultimi anni le esportazioni sono cresciute notevolmente, ma non sono poche le aziende, soprattutto piccole, che hanno difficoltà. Prima di tutto acquisire la consapevolezza che insieme si va molto più lontano in termini di obiettivi, in termini di solidità di obiettivi raggiunti, differentemente se si affronta il viaggio da soli. Sicuramente da soli si è più veloci, si è più snelli, più flessibili, più rapidi, ma per lasciare il segno c'è bisogno del tempo, e il tempo insieme si riesce a coordinarlo meglio. Questo sicuramente è una delle precondizioni. Devo dire anche che attualmente le politiche dell'OCM aiutano le aziende a mettersi insieme, a scoprire che insieme si può fare bene. Probabilmente tante aziende italiane in questo momento lo stanno sperimentando sulla propria pelle e diventerà un modello per il futuro. Ciò che invece può danneggiare, secondo Mastro Berardino, è la scarsa conoscenza da parte del mondo politico di questo settore dell'economia reale italiana che produce lavoro, esportazione e sostenibilità ambientale. Il vino in questo paese rappresenta una filiera produttiva che occupa all'incirca nel suo complesso 1,2 milioni di addetti. È il tessuto connettivo del paese. Vigna e vino sono presenti in questo paese in tutte le regioni d'Italia. Non c'è un polo di eccellenza e il nulla attorno. No, il vino è proprio il tessuto connettivo dell'Italia. Quindi è una ricchezza radicata e diffusa. C'è bisogno di questa consapevolezza. C'è bisogno di sapere che il vino esporta 4,4 miliardi di euro. Non mi appassiona tanto il numero, ma un semplice concetto. Il vino italiano è presente in oltre 200 paesi del mondo. Probabilmente neanche le più grandi griffe della moda italiana raggiungono così capillarmente tanti mercati nel mondo. Sembrerebbe che il vino da solo rappresenta più del doppio dell'esportazione complessiva della Fiat. La differenza è che il vino è rappresentato da 35.000 cantine e rappresentato da oltre 400.000 viticoltori. E questa ha una sua valenza, ancor prima economica, di natura sociale per questo paese. E dico di più, la vigna è in collina. È assurdo assistere a trasmissioni dove ci dicono che bisogna investire in opere edili o migliaia di miliardi di euro per il consolidamento idrogeologico del nostro paese. Basta mantenerci le vigne in collina. E nel mondo delle aziende delocalizzate e del commercio globale, questo settore ha caratteristiche che determinano un modello di impresa con alcuni punti di forza. Il settore del vino a livello mondiale condivide una regola che è nata qui in Italia. Con orgoglio di appartenenza è più o meno nata a Pompei qualche secolo prima di Cristo con i Romani, quando i Romani hanno iniziato a produrre la prima denominazione di origine al mondo, il Falerno. Beh, è stata fissata una regola piuttosto semplice, il concetto è che un vino che ha un nome di un territorio è prodotto in quel territorio, con vigne in quel territorio, con determinati vitigni. Questa regola è universalmente condivisa in tutto il mondo, per cui significa che i produttori di Bordeaux, di Champagne, di Cognac in Francia hanno metabolizzato e fatto proprio il principio che il vino di Champagne si fa nella regione dello Champagne, da determinati vigneti, da determinate uve, e questo vale in California per i vini californiani, o in Oregon per i vini dell'Oregon, o in Australia, o per le denominazioni sudafricane, o della Nuova Zelanda, o dell'Argentina. Ecco, qui c'è un valore comune che è universalmente condiviso ed accettato, al di là di mere speculazioni commerciali. Io sono convinto che più cresce il consumatore con consapevolezza del vino che beve, e più progressivamente le speculazioni commerciali tenderanno a sparire. Abbiamo iniziato questa puntata parlando di impresa familiare e con questo tema vogliamo concluderla. La questione è quanto in questo settore possa essere importante e perché il modello dell'impresa familiare. Allora, Terredor è un'impresa familiare. Fare predizioni del lungo futuro è sempre estremamente difficile. È un'impresa familiare, siamo tre fratelli generazionalmente più o meno vicini, se non coetanei. Resterà un'impresa familiare? Credo assolutamente sì. Il vino, la vigna, non è semplicemente un fatto di business, è un fatto di senso di appartenenza, di capacità, di perseveranza e di costanza nel lungo termine. La famiglia come nucleo solido sicuramente è un plus, non l'unico, non è l'unico modello, perché ci sono altri modelli alternativi che fanno altrettanto bene, però il consumatore del vino e del vino di qualità si aspetta di conoscere l'uomo dietro la bottiglia. In questo senso le imprese familiari del vino, e in particolar modo del vino italiano, saranno un passettino sempre più avanti. Si chiude qui questo appuntamento di Voci d'Impresa, che ha ospitato oggi Lucio Mastro Berardino di Terredora. L'appuntamento è alla prossima settimana, con una puntata dedicata a una delle maggiori imprese italiane del settore food, Barilla. Avete ascoltato Voci d'Impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.